Questo discorso è intitolato Ve'ata Shema Elokeinu. E ora vediamo il significato. Il discorso, come abbiamo detto, del Rebbe Yosef Yitzchak, il sesto Rebbe di Lubavitch, che ha scritto quando era già a New York, nell'estate del 1941. E ha citato un versetto del libro di Daniel. Ora, questo versetto sarà noto a noi perché l'abbiamo appena recitato pochi minuti fa. Se voi guardate il testo, vedete scritto Ve'ata Shema Elokeinu el tefilat avdecha ve'el tachanunav ve'ha'er panecha al mikdashcha ha'shamem leman Hashem. Dove l'abbiamo letto? L'abbiamo letto nel Tachanun, che si dice giovedì, lunedì e giovedì. Ok? Cosa significa questo versetto? Traduciamo. Ve'ata. Cosa vuol dire ve'ata? Chi sa cosa vuol dire ve'ata? E tu. No? Non in questo senso. Ecco, perché c'è con una ain. Con la ain e adesso. Bravo. Adesso. E ora? Come ata tire, ora vedrai. Non è tu vedrai. Ora perché con la ain. Ve'ata. E ora? Shema. Ascolta, Shema sappiamo che significa ascolta, però questo Shema non è rivolto a Shema Israel come normalmente, ma Shema Elokeinu. Noi chiediamo, è Daniel, questo è tratto dal libro di Daniel, è Daniel che prega Hashem e dice Shema Elokeinu, ascolta il nostro Signore, El Tefilat Avdecha, la preghiera del tuo servo, Avdecha, singolare, non è plurale, Vel Tachanunav, e alle sue suppliche, Tachanun sono suppliche, Ve'ha'er panecha, illumina il tuo volto, fai illuminare il tuo volto significa rivolgiti verso al Mikdashcha, il tuo tempio, Mikdash, Mikdashcha, Hashamem, che è desolato. Daniele era nel periodo della distruzione del primo tempio, tra il primo e il secondo tempio. Leman Hashem, per Dio. Questo è il significato del versetto, fa parte di una preghiera di Daniel. E ora ci spiegherà, prima di tutto, prima di entrare nella Hasidut, il Rebbe Yosef Yitzchak qui ci spiegherà il contesto da cui è tratta questa tefilà. E ci racconta la storia. Daniel, Yachadim od shlosha iladim, Daniel, con altri tre ragazzi giovani, bambini, mi benei malchut beit David, che erano parenti della casa reale di David, quindi di Yehuda, erano stati esiliati, soprattutto i più importanti e aristocratici membri della corte e della zona di Yehuda, di Gerusalemme, da parte delle, adesso vedremo da chi, e chi erano gli altri tre? Hanania, Mishael e Azaria. Questi erano tre insieme a Daniel. Gurshu, che erano stati esiliati, agli dei Nebuchadnezzar, il re imperatore babilonese Nabucodonosor, Mirushalayim, esiliati da Gerusalemme, le Bavel, verso la Babilonia. Non erano solo quattro persone, chiaramente. Im Odar Beila di Yudim, con altri molti, con molti altri bambini ebrei. Nebuchadnezzar cosa fece? Nebuchadnezzar zivà, ordinò al Sara Sarissim, il capo, il ministro che si occupava degli eunuchi che sarebbero stati a servire nella corte, e si chiamava questo ministro Ashpenaz, livchor, di andare a scegliere Meazulata Malchut shel Yehudim, dall'aristocrazia reale degli ebrei, Yeladim, dei bambini, Yaffim, belli, Betoar ubemare, nel loro aspetto e nella loro fisionomia, Sheinam baleimum, che non avessero nessun difetto, Gam lo mumim nistarim ktanim, neanche piccoli difetti nascosti, ma non solo fisicamente, Baalei kishronot sichliim, buoni, di buona mente, di buona intelligenza, im havanatova, di buona comprensione, veieda, conoscenze, ubalei koach gashmi, anche fisicamente forti, vetatsumot nefesh, e anche forti d'animo, la mod be'armon ha-melech, per poter rimanere e gestire le cose nel palazzo reale. Loro hanno investito, i babilonesi hanno investito in questi bambini, morim tovim, buoni maestri, mukhsharim, buoni come dire, talentuosi maestri, yechanchu yeladim eilu b'meshech shalosh anim, che avrebbero avuto il compito di educare questi bambini per 3 anni di seguito. Ha-melech atzmo, era proprio il re stesso Nebuchadnezzar, che agli edei rofim tovim, tramite dei buoni medici, da'ag le mazon u le mashkel ha-iladim, e si preoccupò che ci sia cibo e bevande per i bambini del più alto livello, la migliore qualità, che dei sheyitpatchu heitev, perché si possino sviluppare la loro crescita nella maniera migliore. Sono tutti numeri dispari, ok? Quindi 103, 105. Sara Sarissim, questo ministro di cui parlavamo, Bachar Az Arba'a Yeladim, ha scelto tra tutti i bambini soprattutto 4. Daniel, Hananiah, Mishael e Azaria. Venatan lahem shemot acherim, e diede loro altri nomi babilonesi. Le Daniel kara Baltshazzar, a Daniel diede questo nome qui, Baltshazzar. Hananiah lo fece chiamare Shadrach. Mishael viene chiamato Meshach e Azaria viene chiamato Avednego. Cosa sono questi nomi? Cosa rappresentano? Qui vediamo qual era anche il loro intento. Hayu ele shemot elilim lahem avdu hakasdim. I casdei servivano idoli che avevano questi nomi. E loro diedero questi nomi a questi 4 ragazzi. Hashomer hechilotam, il guardiano che era responsabile di dare loro da mangiare, dava loro al pia seder, secondo le istruzioni, shekava ha-melech, che era stato prefissato dal re, agli edei ha-mumchim, con l'input degli esperti. Ovviamente questo cibo non era kasher. Daniel hirher badavar. Daniel approfondì e pensò come fare. Veichlit, ed arrivò da una decisione. Hachlata eitana, una decisione ferma, molto forte. Shehu lo yochal et amazon, che lui non mangerà il cibo, shemevim lo mehamidbach amalchuti, che viene portato dalla cucina reale, ve lo yishte et hayayin mi martefei ha-melech, e non berrà il vino che proviene dalle cantine del re. Ze haya benigud le tzav ha-melech, e questo ovviamente era contro, in contrasto all'ordine del re, she anash bigzardin mavet, che avrebbe fatto una punizione capitale, pena capitale, per chi va contro le istruzioni del re, è normale. Ve'afal piken, e nonostante ciò, Daniel lo achal et amazon ha-malchuti, Daniel non mangiò il cibo reale, ve lo shatai et ha-mashkot ha-malchutim, e non beve le bevande reali. Qui non conclude questa parte della storia, praticamente qui Daniel, Hananiah, Mishael e Azariah hanno convinto lo Shomer, il guardiano dice: se voi non mangiate, si vedrà subito dopo qualche giorno e io sono in pericolo, il guardiano. Allora loro dissero al guardiano: portaci acqua, portaci delle semenze, delle cose semplici, non lavorate, e noi mangeremo quello, e fai una prova per 10 giorni, vedrai come sarà il nostro aspetto. E nessuno altro dovrà sapere. E così fu che loro mangiarono queste cose semplici, e erano sani, avevano un aspetto bello e sano e forte, e quindi si salvarono in questa maniera. Fu anche una cosa miracolosa. Però ora noi vediamo un altro aspetto della storia, non si racconta qui tutto il libro di Daniel. Vediamo Ot Bet, la seconda parte, c'è scritto così. Le Daniel haita mesirut nefesh le ignana tefila. Noi abbiamo visto che loro si sono sacrificati per la kashrut, ma in realtà Daniel si era sacrificato anche per la tefila. Cosa significa? Più avanti nella storia, quando Daniele ormai era già un consigliere del re, che se Hashem Yitbarach gilà le Daniel et halom Nebuchadnezzar in pitrono, simile alla storia di Yosef con il faraone, sogno, anche Daniel era portato ad interpretare i sogni in maniera corretta. E c'è scritto che Nebuchadnezzar fece un sogno che non si riuscì a spiegare, tutti i loro chachamim non riuscirono a spiegarlo, finché non lo interpretò Daniel, che poté spiegare sia il significato del sogno che il significato dell'interpretazione, cosa significa e cosa indicava che era una cosa profetica. Ve Daniel Masar Zotlem Nebuchadnezzar, e lui trasmise la spiegazione Daniel a Nebuchadnezzar. Allora, quando Nebuchadnezzar vide questo potere che aveva spirituale che aveva Daniel, un romemoto lo elevò di livello, uminaoto le chada ishim anichbadim bioter bemem shalto, e lo nominò ad una posizione tra le più importanti del suo regno, del suo governo. Vedaglo le dirabe achat mermenotav, e uno dei benefit che ebbe Daniel per questa nomina fu il fatto di ricevere una abitazione all'interno di uno dei palazzi reali. Più avanti, quando ormai il regno di Nebuchadnezzar si era diviso ed era una parte diventò l'impero babilonese, una parte diventò l'impero di Madai, Media, Persia e Media, allora il re della Media era Dariavesh. Allora a quel punto anche Daniel era importante con il re Dariavesh. Dariavesh Amelech Hamadi, il re della Media, Hechshiv Atzmo Keloka. La sua pazzia di Dariavesh era che lui doveva essere considerato un divino, come molti imperatori nella storia. Vetziva, quindi comandò, ordinò, Asher Bemakom, Bimkom Levakesh Melokav, invece che ognuno chiede al proprio Dio quando prega, di qualsiasi religione che sia, al kol echad levakesh me'amelech, devono pregare solo al re. Umish eloi kayem atzivui, e chi non metterà in atto questo ordine, yutza la horeg al yedei hashlachato legova reyot revim, sarà messo a morte, ma in che maniera sarà messo a morte? Non sarà graziato con una semplice decapitazione, dovrà essere messo dai leoni nella fossa dei leoni quando hanno fame. Allora Daniel kavaba dirasha melech natan lo cheder litfila. Daniel aveva nel suo appartamento affissato una stanza dedicata per la tefila. E in questa stanza, perché proprio questa stanza? Perché c'era una finestra che dava sulla direzione di Yerushalayim e del Bet HaMikdash. E lì lui pregava tutti i giorni. Bacheder hazeh haya halon. C'era una finestra in questa stanza, patuach, che si apriva verso le Kivun Yerushalayim, u Beit HaMikdash. Sham hu hitpalel shalosh pe'amim beyom. E lui lì pregava tre volte al giorno, Shacharit, Mincha ve'arvit. Una volta, pam achat, akvu kama anashim achar Daniel. Delle persone che cercavano di trovare un motivo per buttare giù Daniel dalla sua posizione, lo seguirono, fecero delle indagini, cosa fa qui, cosa fa lì, in quest'ora, in quell'ora, e videro che lui pregava tre volte al giorno, non al re Dariavesh, ma al suo Dio. Veil shinu la melech, e quindi portarono queste informazioni al re, sheinome malezi vui a melech, che lui, Daniel, non rispetta l'ordine del re, e la mitpalel shalosh pe'ami beyom, bensì fa, continua a fare la sua tefilah tre volte al giorno. Il mondo non è mai cambiato, eh? Scusa una parentesi, Rafa, sì? Che mi fai capire. Sì. Non c'è Nabucodonosor in questo contesto? No, ormai c'è già l'altro re Dariavesh. Perché io ho sentito una che Daniele che gli ha detto a Nabucodonosor, sì, di che cosa? Qua della la come si chiama? L'interpretazione del sogno. Sì. Vedo Piero. Non ci hai parlato di questa interpretazione. Non siamo entrati nello specifico della storia del sogno, perché non stiamo raccontando adesso tutta la storia, però C'è un motivo per cui stiamo vedendo questa parte qua, adesso vedrai perché. Okay. Il re che aveva tanto rispetto per Daniele, aveva anche bisogno di lui, della sua saggezza, chi vede Daniel Meod, ma nonostante ciò, Razzale Azzilò avrebbe voluto salvarlo, però c'era la legge ormai scritta. Achlefi, Chukei, Parasumadai, secondo le leggi, gli statuti della Persia e la Media, Gam hu atzmo lo yachale akel beoncho. Anche lui stesso, il re stesso, non avrebbe potuto fare meno la sua punizione. Lo vediamo anche nella storia di Esther. Che il re, una volta che c'era il sigillo, non si poteva cambiare. Quindi Ahasverosh non ha potuto abolire la legge fatta da Aman, ha potuto fare un'altra legge che gli ebrei si possono difendere, ma la legge lì era l'usanza così. Una volta fatta la legge non si poteva abolire. Allora, cosa hanno fatto? Non c'era scelta. Vishlichu oto legov arayot. L'hanno mandato nella fossa dei leoni, el bein arayot re'evim, tra i leoni affamati. E hanno poi messo il sigillo intorno del re, al hagov inichu even gdola, hanno chiuso l'entrata con una grande roccia, una grande pietra, e i lati hanno sigillato con il sigillo del re. Aval Hashem yitbarach hitzilo meha arayot. Hashem lo ha salvato dalla bocca dei leoni. Significa che Daniel era pronto a sacrificare la sua vita per fare cosa? Per fare tefilà. Kach nahag Daniel tamid bederech shel misirut nefesh l'inyan ha-tefilah. Così era l'uso di Daniel di mai trascurare la tefilah, anche qualora dovesse essere sacrificato per questo. Una delle sue tefilot è quella che abbiamo citato all'inizio di questo discorso. Achat mitfilotav hayeta ve'ata, e ora, Shema Elokeinu, ascolta nostro Dio. El tefilat avdecha, alla preghiera del tuo servo, vel tachnunave, alle sue suppliche, veha er panecha, illumina, rivolgi il tuo volto verso Mikdashcha Shamem, verso il tuo Mikdash desolato, le man Hashem, per Dio. E ora cerchiamo di approfondire un po' questa tefila. Tzarich leavin, bisogna capire, et mashma'ut amila ve'ata, perché dice e ora, davka achshav, proprio adesso, ve'et atfila, in questo momento. Perché è ora? Cos'è ora? Ora è il momento di tefilà, perché è il momento in cui lui stava facendo tefilà. Ma noi sappiamo, e noi l'abbiamo anche studiato in precedenza, che all'origine e nella radice del concetto di tefilà, sì, i Chachamim poi hanno definito dei momenti per la tefilà, ma in origine il concetto di tefilà alla radice trascende il tempo. Il concetto di tefilà è che quando ti trovi in difficoltà devi rivolgerti ad HaKadosh Baruch Hu. Quando hai un'esigenza devi rivolgerti ad HaKadosh Baruch Hu. Non è limitato a un tempo specifico. La tefila en zman kavua, teoricamente la tefila non ha un tempo limitato. Sheharei, poiché inyana tefilahu, qual è l'idea, il concetto della tefila? Shebechol et tzara, che in ogni momento di difficoltà o di sofferenza, che sia hen tzarat rabbim, che sia una difficoltà di un pubblico, di una collettività, vehen sarat yachid, o che sia una difficoltà personale di un singolo, di un individuo, la tfilah è mitzvah lehitpallel l'Hashem. È mitzvah in quella situazione pregare Hashem, yitbarach, sheishlach Yeshua, di inviare una salvezza. E la base della tefilah, yesod mitzvah tfilah hu, è... Su cosa si basa questa mitzvah della tefilah? Si basa sulla emunah. Ha emunah, la fede, ha kayemet belev kol yudi, la fede che si trova all'interno del cuore di ogni ebreo. She Hashem yitbarach zan kol echad bechesed, che il Signore nutre ognuno con la sua benevolenza, con il suo chesed. Umanhig et kol haberuim berachamim, e guida tutte le creature con la sua misericordia. Un mashgiach e supervisiona al kol yachid beashgacha pratit, con una supervisione specifica, non generica generale, ma specifica di ogni cosa che esiste. E questa è la base della mitzvah della tefilah. Io prego perché credo che HaKadosh Baruch Hu mi sta guardando, mi sta sentendo e mi vuole nutrire, ha misericordia per me, e quando sono in difficoltà faccio tefilah per questo. Allora, Madu HaKata Ve'ata, perché dice ora, come se lo limitasse a un momento specifico. C'è qualcosa che in questo è ora che bisogna scoprire il significato profondo. Perché proprio in quel momento e quale sia e se c'è un momento particolare perché e quale fosse. E noi approfondiremo questo discorso facendo anche un approfondimento sull'ultima parte del versetto che all'inizio dice Ve'ata e ora e nell'ultima frase dice Leman Hashem per Dio. Perché per Dio? Per me, per la mia sofferenza. È come se io non meritassi, però fallo per te. Allora, anche qui c'è qualcosa di profondo che vuole esprimere, e la Gemara già ne parla nel trattato di Berachot di questo aspetto, e noi vedremo di approfondire vari punti, tra cui quelli già esposti, di questa sua tefilah di Daniel, e entreremo un po' nel cuore della tefilah. Alla prossima volta procederemo al terzo capitolo.